sé yo, viene el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. O sventurati uomini, o infelice terra, o spaventosa congenie di tutti i mortali, eterno sostentamento di inutili dolori. Filosofi fallaci che gridate tutto è bene, accorrete, contemplate queste tremende rovine. Queste macerie, questi brani di carne e queste misere ceneri. Queste donne, questi fanciulli, l'un sull'altro ammassati. Queste membra disperse sotto i marmi in frantumi, 100.000 feriti che la terra divora, che insanguinati, fatti a pezzi, ma ancora vivi, sepolti sotto i loro tetti, terminano senza un aiuto i loro giorni di pena, tra atroci tormenti. Per alcuni storiografi, il terremoto di Lisbona del novembre 1755 fu il disastro che segnò l'inizio dell'era moderna. Voltaire compose un poema sul disastro del terremoto di Lisbona, poema che fu origine di una profonda riflessione. Non vogliamo questa mattina sovrapporre riflessioni di tipo filosofico a quelle che sono le riflessioni sulla cruda contingenza che staranno attraversando le menti tormentate e addolorate e ferite delle vittime del terremoto in Abruzzo. Nemmeno però noi vorremmo aggiungere la nostra voce a tutto quello che già molto meglio di noi altri stanno facendo, nel determinare le possibili soluzioni immediate per lenire quel dolore. No, vorremmo proprio ripartire dal discorso di Voltaire nel 1755, perché un filosofo scrisse un poema su un disastro che segnava una delle tante capitali d'Italia. Perché a Voltaire venne in mente di dire che mentre a Lisbona si piangeva e soffriva, a Parigi si danzava, c'era festa. Non è questa l'impressione che cogliamo anche dentro di noi, guardando in televisione quello che è il racconto del terremoto dell'Abruzzo, secondo gli stili della televisione, che è il racconto contemporaneo, che è la cifra epica che noi conosciamo. La televisione va sul luogo del disastro, spreme fino all'ultima goccia il dolore, la sofferenza. Ne ho viste di cose ieri sera. Genitori tirati fuori dalla tenda che devono raccontare del loro figlio morto sotto le macerie, cui viene detto: dite una nota di speranza in nome del vostro figlio morto. E guardavano l'intervistatore e dicevano: ma noi dobbiamo dire una nota di speranza, dillo a te che sei un giornalista, dillo a te cosa dobbiamo fare, non abbiamo più nulla. Vedere il più perfezionato, il più tecnico, il meraviglioso universo dei media che riusciva a mettere nello stesso tempo fisico e mentale i rappresentanti dello Stato, del governo, dell'istituzione, quelli che devono provvedere, e le vittime del grande terremoto, che dicono: non abbiamo nulla, non abbiamo casa, non abbiamo vestiti, non abbiamo più nulla, non abbiamo più famiglia, aiutateci, perché non sappiamo nemmeno dove andare ora a dormire. E in studio c'era Bruno Vespa, diceva, il rappresentante di non so di quale istituzione: ma perché queste persone non hanno nulla per dormire? E lui dice: ma perché le tende stanno arrivando. E Vespa, in un momento di profonda umanità, dice: ma sono le 10:30 di notte, come stanno arrivando le tende? Quando le darete le tende per dormire? E ci si rende conto improvvisamente che di fronte alla forza della natura non esiste organizzazione umana, non esiste scoperta tecnologica, non esiste velocizzazione dei tempi attraverso la fallace sicuramente, ma attendibile secondo i ritmi della nostra vita, lettura dei media. Cosa accadde nel 1755? Perché Voltaire si pose il problema e aprì una profondissima disquisizione sul senso del disastro. Questa mattina mi aiuta un amico e un filosofo, naturalmente, perché il taglio di questa trasmissione inizia proprio con una riflessione tipo filosofica. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Perché Voltaire scrisse il poema sul disastro di Lisbona? Lo scrisse di getto. perché ne fu colpito. Lui, quando il 23 novembre fu raggiunto dalla notizia del terremoto, si trovava nei pressi di Ginevra, nel suo appartamento, fu sconvolto dalla notizia e corse come reazione a prendere dei versi che già lo avevano tormentato e angustiato, i versi di Pope in cui si diceva che la natura, anche quando agisce apparentemente nel male, sta disegnando un disegno superiore volto al bene. E questo non lo poteva accettare. Scrisse dei commenti a margine delle pagine violenti contro questa idea e poi si gettò a scrivere quei 234 versi che compongono appunto il poema sul disastro di Lisbona, laddove Voltaire voleva dire una cosa, così come avrebbe scritto in un altro suo appunto, che l'ottimismo è esasperante, diceva, è una filosofia crudele sotto un nome consolatorio. Quella nota di speranza che i giornalisti televisivi a cui tu facevi riferimento chiedevano alle anime sconcertate dei terremotati dell'Abruzzo sarebbero state esattamente il bersaglio privilegiato della lucidità di Voltaire, che empaticamente aveva davanti a sé la sofferenza di quel terremoto, lo sconcerto che rende la sofferenza ancora più cruda nella misura in cui non si riesce a darne un senso, e il problema è che un senso non ce l'ha. In questo senso l'ottimismo diventa esasperante, perché toglie lucidità a chi guarda una sofferenza che non ha senso e non può averne. Questa è la riflessione che probabilmente passa per la mente di molte persone che questa notte l'hanno passata all'addiaccio, che piangono i loro morti e non hanno più le loro case. Lo so, perché in piccolissima parte, mi vergogno quasi dirlo, è anche la riflessione che passa nella mia mente, perché anch'io avevo una casa in quel posto, anch'io non so che fine ha fatto la mia casa. Era il luogo dove fuggivo, per me era il luogo della gioia, della fuga dalla realtà, delle piccole fessure domestiche che si attraversano ogni volta che uno vuole essere liberato. Per me questo era l'Abruzzo, lì avevo una casa, lì avevo anch'io un posto, avevo degli amici. Anch'io mi sento in parte ferito questa mattina, non posso fare a meno di mettere sul piatto anche la mia infinitesimale sofferenza di fronte a quella enorme di chi ha lasciato dei parenti. La riflessione è proprio questa, l'avevo accennata prima a memoria, ho trovato il passo, Stefano. La Lisbona che fu conobbe maggior vizi di Parigi e Londra, immerse nei piaceri, Lisbona è distrutta e a Parigi si balla. Tranquilli spettatori, spiriti intrepidi dei fratelli morenti, assistendo a un naufragio, voi ricercate in pace le cause dei disastri. Ma se avvertite i colpi avversi del destino, divenite più umani e come anche noi piangete. Ecco, questo è il senso. Lo senso dello stato d'animo di chi è sotto l'occhio della telecamera, sa che quella telecamera è l'unico brandello possibile e che ha perché il mondo si accorga di lui, perché probabilmente qualcuno agisca, perché si muovano poi gli enti, le industrie, chi può, le istituzioni. Quindi è necessario per lui quella sorta di ordalia, quel passaggio doloroso e anche vergognoso della sua intimità nel momento del dolore esasperata. Però in quel momento sembra quasi che dica agli altri, voi che ci guardate, cosa ho fatto io che non avete fatto voi? Qual è stata la mia colpa perché io sia qui, macilento, coperto di stracci e con un disastro di macerie dietro e voi stiate nelle vostre case comodi e godiate dello spettacolo del mio dolore? Stefano? Sì, assolutamente, è proprio l'idea di Voltaire, è mettere sotto gli occhi di tutti che l'ingiustizia, se vogliamo usare questo termine forse improprio, c'è. Non c'è ragione per cui alcuni siano devastati dalla violenza del terremoto e altri contemporaneamente continuino a ballare piuttosto che a divertirsi, ma questo è lo spettacolo del mondo, è lo spettacolo che dobbiamo abituarci a guardare e verosimilmente riuscire a combattere e a contenere nei limiti del possibile. È la consapevolezza della finitudine dell'uomo che deve contrastare contro l'insensatezza della violenza, e dar senso alla violenza per Voltaire non aiuta. È proprio quella crudeltà dell'ottimismo a cui bisogna opporre l'umiltà di uno sguardo lucido e coraggioso nell'affrontare il peso di un non senso che grava sull'umanità. Poi esiste una sorta di fato, anche se mi si concederà il termine non proprio esatto, che fa sì che questa riflessione in alcune zone, ad alcune latitudini, venga fatta con maggior ricorrenza piuttosto che in altri posti. Parlo dell'Abruzzo e parlo di un altro terremoto che ci fu nel 1915, anno sfortunato, c'era l'inizio della guerra, tutti si occuparono della guerra e pochi pensarono che 33.000 persone morirono in quello che fu il terremoto della Marsica, dove Ignazio Silone perse la madre. Ahimè, Sono tornato a Pescina. Ho rivisto con le lacrime agli occhi le macerie. Sono ripassato tra le misere capanne, coperte alcune da pochi cenci come i primi giorni, dove vive con una indistinzione orribile di sesso, età e condizione la gente povera. Ho rivisto anche la nostra casa, dove vidi, con gli occhi esausti di piangere, estrarre la nostra madre, cerea, disfatta, ora il suo cadavere è seppellito. Eppure anche là, mi pare uscisse la sua voce. Forse l'ombra di nostra madre ora abita quelle macerie, inconscia della nostra sorte. Pare che ci chiami a stringerci nel suo seno. Ho rivisto il luogo dove tu, fortunatamente, fosti scavato. Ho rivisto tutto. Siamo nel 1915, il terrificante terremoto della Marska fu qualcosa che rase al suolo un'intera zona. Ancora passando lì si vede e si nota che non c'è nulla anteriore a quella data. E è il percorso che facevo io per andare alla mia casetta in Abruzzo. E fu detto che per Zilone l'esperienza di essere colpito da piccolo in famiglia da questo dramma, aveva 15 anni al tempo del terremoto alla Marsica, fu per lui così decisiva per la sua produzione letteraria e poetica, che fu messa in relazione a una stessa sensazione che provò Dostoevskij quando scampò all'ultimo minuto all'esecuzione capitale. L'essere scampato da un disastro così enorme corrisponde per un artista, per un poeta, per uno scrittore, a quello che significa aver toccato per un istante la quasi certezza di dover morire. Ho al telefono il professor Francesco Stoppa. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. È ordinario di vulcanologia, ma di vulcanologi ne abbiamo sentiti tantissimi in questi giorni. A me interessa perché è direttore del Dipartimento di Scienza della Terra all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Quello che mi interessa, lei immerso anche fisicamente, storicamente, in terra d'Abruzzo, oltre che studiare i vulcani, è una cosa molto importante. E capire quanto in Abruzzo esisteva già, proprio nel patrimonio genetico, la cultura del terremoto. Io, per quello che conosco, per quello che so, per quello che vivo, era qualcosa che già trapelava da quella terra, da quei sassi, da quei ricordi. Quasi un senso di fatalità che c'era nella gente. E adesso, alla luce di quello che è accaduto, potrà essere un punto di vantaggio questa cosa per riuscire a uscire dal momento di crisi? Ma guardi, io ho sentito tanta retorica da parte dei giornalisti, forse superata solo dai politici. Ho sentito ancora parlare di castigo, maledizione, mostro nascosto nella terra, le ferite inferte a questo corpo. Diciamo, c'è una forte retorica che è controbilanciata dalla coscienza che hanno gli abruzzesi, che hanno subito terremoti ben maggiori di quello dell'altra notte per secoli, e che però ovviamente è irrazionale. Infatti si affidano a Sant'Emidio, credo che sarà stata pronunciata decine di migliaia di volte in questi giorni la famosa frase "Trittiche Sant'Emidio", e Sant'Emidio è il protettore dell'esclamazione che si fa quando si sente il terremoto in Abruzzo. Però devo dire che in realtà ormai il rapporto tra gli abruzzesi, ma tra l'uomo e la natura, è spezzato in maniera irreversibile, e quindi va recuperato forse non alla luce della filosofia, che ormai si è separata dalla scienza, appunto dall'epoca di Voltaire, dall'illuminismo, va recuperata in una chiave pragmatista. E direi che nella chiave pragmatista bisogna sgombrare anche proprio a livello lessicale la confusione che si fa, perché poi gli abruzzesi rimangono confusi anche loro. Per esempio si parla di prevenzione sicuramente sì, previsione ni, direi, perché la previsione si può fare, gli economisti fanno previsioni, perché non dovrebbero farlo i geologi, e sono basate sui precursori, sui premonitori. Questo poi dipende dal grado di confidenza, anche di condivisione di questi sì, fattori. Sì, non vorrei entrare anch'io nella polemica del veggente di questi giorni, perché ne stiamo parlando anche troppo. Sì, no, polemiche, io faccio attività di divulgazione sulla cultura del terremoto per questo è qua, sì. Tutto l'anno, quindi ho incontrato non più di 10 giorni fa una sopravvissuta a 103 anni, diciamo, al terremoto di Avezzano, quindi è chiaro che la coscienza di questi fenomeni è presente, però il ricordo, diciamo, in Abruzzo di questi eventi così drammatici è scema col tempo. Vogliamo dire una cosa, professore? Prego. Per quanto io conosca e ami l'Abruzzo, mi senta in parte figlio dell'Abruzzo, perché ci passo i giorni, ci ho passato almeno i giorni migliori dei miei ultimi anni, ma ci tornerò, certo, aspetto che passi il casino di questi giorni per andare a vedere che è successo a casa mia. Non mi sembra il caso di andare a curosare adesso, perché ci sono priorità ben più forti. Certo. Però una cosa che ho notato, per quanto voglia bene agli abruzzesi, potrebbero forse cominciare adesso, alla luce di questa riflessione, a volere un pochino più bene al loro territorio. Ho visto delle infamità edilizie in parchi naturali. Queste sono state inferte, però diciamo che anche il fatto che il territorio dell'Aquila, seppure si trovi in una zona di massima pericolosità sismica, e questo lo si sa da sempre per esperienza storica, anche per i dati scientifici, in realtà in gran parte per consentire lo sviluppo della nostra capitale non è in seconda categoria, cioè voglio dire all'Aquila si costruisce come a Chieti, e questo chiaramente è un qualche cosa che pone dei problemi. Ma anche tutto il territorio intorno a Ocre, la zona delle Rocche, sembra che lo sport nazionale sia continuare a costruire case quando sono territori che la maggior parte dell'anno sono deserti. La gente ci va soltanto i due mesi che si scia. Beh, guardi, paradossalmente in Abruzzo sono in prima categoria le zone dove ci sono meno interessi. Questo pure non sta a me fare questo commento, questa sovrapposizione, però laddove ci sono esigenze incontrollate, direi, di sviluppo, lì non si adottano le norme antisismiche. Per esempio il bacino di Sulmona, che ugualmente in stato di pericolosità, e Sulmona è stata distrutta completamente nel 1706, cioè 3 anni dopo la scossa di Candelora che distrusse l'Aquila, però è in prima categoria, l'Aquila no, ci sono dei motivi anche forse di competizione con Pescara, motivi tipicamente umani che non hanno niente a che fare né con i desideri, le aspirazioni delle persone e neanche con la scienza, quindi su questo io mi posso pronunciare come cittadino, ma come scienziato non mi pronuncio. Cioè ci si era un po' dimenticati questa sorta di monito che è nel DNA dell'abruzzese, che si dice a Sant'Emidio come ricorrente litania, che la terra scricchiola, che la terra deve scricchiolare prima o poi. Sì, ma Sant'Emidio è il terremoto, cioè si invoca Sant'Emidio perché in realtà è un sincretismo, però è chiaro che nella letteratura, nei monumenti, nei nostri monumenti sono registrati gli strati dei crolli uno dopo l'altro, dei terremoti che si presentano con una frequenza di 1 o 2 al secolo, quindi non possiamo parlare, io credo che sia successo qualcosa, diciamo, nel momento in cui l'uomo è stato tecnologicamente in grado di prevenire i danni dei terremoti, questo non è stato fatto in Abruzzo. Ovviamente i centri storici sono vulnerabili, però non devono crollare gli edifici costruiti. Volevo a questo punto passare lì una telefonata, che è un'amica che conosce bene questa trasmissione, che ho anche evocato ieri, Irene Catane. Irene, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Dunque Irene è la nostra amica abruzzese, ballerina di tango, con cui facevamo una meravigliosa trasmissione che ho ieri evocato perché ne avevo perso le tracce. Quando cominciai a vedere sulle agenzie di stampa, quando cominciò a ballarmi il letto l'altra notte, chiamai subito lei perché era la prima amica venuta in mente in Abruzzo. La trovai che era davanti a un fuoco acceso. Tu dove stavi esattamente, Irene? No, io diciamo che sono una fortunata perché non sto in centro all'Aquila, perché abito a circa 8 chilometri in una zona in cui di case isolate e comunque costruite in cemento armato dopo gli anni 80, quindi la mia casa è incolume. E quindi però nonostante tutto abbiamo raggiunto i parenti qui vicini, che stavano invece nel paesino, e siamo stati con loro tutta la notte sulla strada. Abbiamo cercato di fare un fuoco e ecco, ci stanno gli elicotteri adesso, forse non si sente bene, di fare un fuoco, di farci, insomma, però è stato brutto perché comunque nonostante tutto le scosse erano costanti, forti e cioè proprio continue, tuttora, ma da quel momento non è mai finita, cioè tuttora, anche stanotte. È così, però io diciamo che sono una di quelle poche fortunate che non ha avuto né danni fisici né alla casa. Senti, Irene, e non ha perso parenti. A questo punto mi serve un'altra tua competenza. Tu sei quasi laureata in ingegneria, quindi sarai uno dei nuovi ingegneri che aiuterà a ricostruire. Mi dovevo laureare il 20 aprile però a questo punto non lo so, perché la mia facoltà attualmente, cioè, diciamo, come tutte le i luoghi pubblici, non è assolutamente agibile, quindi... Vabbè, sì. Salterai una sessione di laurea, salterò, ma sì, ecco, diventerai ingegnere entro qualche mese. Sì, ecco, sì. Quale sarà l'impegno, Irene? Vedendo tu che hai intorno una realtà adesso abbastanza drammatica, abbiamo accennato il problema che gli abruzzesi forse a volte hanno dimenticato il territorio in cui stavano e questa folle euforia di costruire case su case, addirittura nei parchi regionali, addirittura condomini di 6 piani in mezzo ai boschi dove dovrebbero starci soltanto posti per passeggiare. La tua generazione interromperà un po' questa sorta di perversione che sembra rimasta immutata dagli anni del boom economico? Sì, io penso che questa dovrebbe essere una presa di coscienza proprio nostra, che deve partire soprattutto da noi che abbiamo comunque meno spirito di rassegnazione della generazione vecchia, perché siamo innanzitutto giovani e poi, cioè, spetta a noi cercare di, proprio alla luce anche di, dopo aver subito questo, cioè, questa scossa così forte, anche reagire e appunto cercare di evitare tutto quello che è stato sbagliato fino adesso, senza comunque perdersi d'animo, perché ormai qua il problema principale è secondo me il psicologico, perché comunque nessuno ha la forza di entrare all'Aquila e di vedere quello che è successo, cioè invece io penso che comunque nonostante tutto si debba, cioè, sai Rene, la cosa che fa più specie a tutti, lo mi stanno scrivendo su Facebook, che nel giro di un batter di ciglia però l'ospedale, il palazzo del governo, la prefettura, cioè i luoghi istituzionali che dovrebbero rimanere in piedi in momenti come questo, sono stati rasi al suolo, quindi l'attenzione non è stata nemmeno in quelli che erano i luoghi chiave di salvaguardia della sicurezza di tutti. Io sono stata in ospedale perché poi, visto che comunque a Roma... Ma poi è nuovo l'ospedale, da poco è stato fatto. L'ospedale, vabbè, stava in costruzione da 30 anni in realtà, però era praticamente aperto da 10 anni, ma sì, quello è stato il problema, poi soprattutto anche a livello psicologico delle persone, di vedere crollarsi proprio le strutture che invece dovevano rimanere in piedi, che ha creato anche ancora più panico. Scusami, attingo alle tue competenze tecniche, ma poi non mi interessa entrare nei fatti tecnici, ma a questo punto è importante. Ma quando è stata, diciamo, iniziata o portata a punto, avanzata la costruzione dell'ospedale, non erano già in vigore tutte le leggi antisismiche che prescrivevano che dovesse stare in piedi l'ospedale? Sì, però evidentemente poi non sempre questo ci sta, poi c'è stata anche tanta polemica su questa cosa, quindi è un po' difficile parlarne, perché probabilmente poi bisogna anche vedere le esecuzioni, i materiali, questa è una cosa nella quale secondo me se ne parlerà anche a lungo, appena... Vedi Rene, però finché le polemiche rimangono, il rifacciarsi di parti politiche che si alternano nel governo di un territorio, sulle pagine dei giornali, nelle tribune, nei dibattiti pubblici, può sembrare territorio noioso, melmoso e faticoso. Quando poi accade qualcosa del genere e tutte quelle chiacchiere si concretizzano in qualcosa di inspiegabile, ci si rende conto che forse è ora di fare un passo avanti. Grazie Rene. Molte mi stanno scrivendo colpiti da quelle che sono le letture mediatiche di questi disastri, che molte volte sembrano seguire un cliché già abbastanza scontato, perlomeno nella nostra particolare lettura televisiva. Esistono i due blocchi contrapposti, dei grandi contenitori di approfondimento sull'attualità, che mandano i loro inviati sul posto, hanno in studio le istituzioni e a tempo reale danno l'idea di qualcosa che sta accadendo, in progress. Ieri si deve rimbalzare quelli che possono essere chiamati, forse sì, almeno nel lessico usuale giornalistico, gli eventi lieti, le note di speranza, una persona trovata viva sotto le macerie, che veniva recuperata su Rai 1 e dopo pochi minuti veniva recuperata su Canale 5, oppure, come ho già detto, la ricerca della messa sott'occhio, messa in luce di quelli che sono i momenti cruciali dell'iter del terremotato, del passaggio dalla casa distrutta a dormire in auto. Tutte le auto che dormivano, con le persone che dormivano nei parcheggi, il giornalista che apriva l'una dopo l'altra le macchine e chiedeva alle persone che impressione facesse dormire dentro le macchine oppure dentro la tenda e via dicendo. Questa è una lettura che fa parte di una modernissima liturgia dei grandi eventi. I grandi eventi possono essere sia disastrosi, sia lieti, sia funerali, sia grandi cerimonie. I media trasformano in cerimonia ogni evento naturale. Ma noi abbiamo forse dimenticato quelle che erano le letture attraverso lo stesso mezzo, ma in fasi più retrograde della sua evoluzione. Vi faccio sentire quella che è una cronaca, un TG1 che conduceva Piero Angio, allora conduttore del TG, di quello che era il terremoto in Sicilia del 1968, il terremoto del Belice, che ricordo fece 236 vittime. Ora ci colleghiamo con la Sicilia per vedere un servizio che ci manda Mario Pogliotti. Vedete, quando tra la gente dei paesi in cui la terra ha tremato scende una istintiva, irrefrenabile paura. E ognuno ha innanzitutto il bisogno di non sentirsi solo, di riunirsi con altri compaesani, sentire il calore di una comunità a cui appartiene. Eccoci nelle povere tende fatte di cartone, di coperte, di pali di legno. Perché se nei centri in cui le case sono state distrutte o seriamente danneggiate, tanto da renderle inabitabili, sono sorte le tendopoli, vi sono decine e decine di paesi e borgate in cui le case sono state soltanto sfiorate dal terremoto, forse non sono nemmeno pericolanti. Ma bisogna aver sentito anche soltanto arrivare quel cupo sfrigolio sotterraneo per capire come dopo questo un muro, un tetto, una casa possano diventare elementi ostili. Se vogliamo fare proprio una lettura, cambia lo strumento, non c'è ancora la possibilità tecnologica della diretta. Non si vive a tempo reale la tragedia, però sempre con la differenza sottolineata da Voltaire. Noi siamo Parigi e Londra che ballano e festeggiano e guardano a tempo reale, come se guardassimo attraverso uno spioncino di cui non ci passano gli odori, i sapori, le sofferenze, ma guardiamo come uno spettacolo quello che accade. La televisione ha aumentato la propria possibilità tecnologica, ma ha forse perso in capacità evocatrice. Sentite il pezzo dell'inviato, è un pezzo in punta di penna, in cui cerca di ricostruire attraverso dei lampi impressionistici quello che è il senso della tragedia. Facciamo un passo avanti ancora. Nel 1976 un'altra cronaca sotto forma di documentario del terremoto in Friuli. Friuli, il giorno dopo. Queste sono le prime immagini del terremoto, adesso che si è fatto giorno. Immagini che paiono di una guerra perduta, senza più superstiti, scappati o sepolti fra le macerie, morti o sopravvissuti sotto le pietre. Bisognerà aspettare per saperlo, quando sarà possibile contarsi. Qui l'elemento drammatico, anche qui 976 vittime, per fare anche un excursus storico di come siamo passati attraverso la lettura dei media nella elaborazione della paura collettiva per il disastro. Laddove avviene il disastro si concentra tutta la partecipazione, l'ansia, il dolore, ma allo stesso tempo il senso di sollevazione di stare lontani. Accaduto lì, quindi statisticamente non accadrà qui. Il suono del tamburo, il ritmare del tamburo deve aumentare pathos e drammaticità, deve trasformare in qualcosa che esce dal tempo della realtà, entra nel tempo della narrazione epica quel disastro. Poi il terremoto dell'Irpina nel 1980, me lo ricordo benissimo, già faccio questo mestiere, già andai a visitare quelle zone a 2-3 anni dal terremoto, già feci il servizio militare in quella zona, quindi costruivo container per terremotati. Lo ricordo, fu una esperienza anche vista la luce del tempo, la ricordo con una certa nostalgia. I ragazzini ci prendevano a sassate perché mettevamo a posto i container e loro non li volevano, qualcosa del genere. Ecco, questa volta è un tocco d'artista, la regista Lina Wertmüller, che racconta il terremoto del 1980. È una domenica sera di novembre. In una stanza vuota dell'osservatorio di Monte Porzio Catone, l'ago del sismografo accelera il suo ritmo. Sembra impazzire. Segnala oltre il diagramma per un lunghissimo minuto e mezzo. Nessuno è lì a controllare. L'Italia più ricca si prepara ad andare a cena, quella più povera ha appena finito di mangiare. Sono le 7:35 del 23 novembre 1980. Nessuno raccoglie il muto allarme di quel lago. Per un minuto e mezzo un tremendo brivido geologico percorre la spina dorsale del mezzogiorno d'Italia e precipita nella catastrofe tutto un mondo di antiche civiltà. Bruna De Marchi, buongiorno. Buongiorno. Lei è una sociologa dei disastri. È proprio così. Abbiamo fatto, proprio per farglielo ascoltare, un brevissimo excursus di come lo strumento di narrazione popolare più potente nell'epoca che stiamo vivendo trasforma in racconto popolare anche il disastro. La sociologia del disastro aggiunge nuove pagine, nuovi strumenti di osservazione in questi giorni, o si ripete comunque un cliché che muta soltanto nella mutare della tecnologia dello strumento di narrazione? Moltissimo si ripete in quello che accade, il racconto cambia e prendo spunto da quello che ha detto Morigi prima. Parlando di Voltaire, lui parla del commento di Voltaire il 23 novembre del 1755, la data del terremoto di Lisbona è 1 novembre 1755, già questo credo ci dica molto, il tempo trascorso fra l'evento per quelli che lo vivono e l'evento per quelli che ne apprendono. Oggi dai mass media, a quel tempo attraverso canali evidentemente molto più lenti, pensi che il terremoto, considerando che lo scrisse di getto, quindi gli arrivò dopo 15-20 giorni, esattamente. Se pensiamo al terremoto di Messina, e siamo molto più vicini, siamo nel 1908, Messina 28 dicembre 1908, credo che la notizia giunse a Roma circa una settimana dopo, tant'è vero che i primi soccorsi furono prestati da una nave russa che si trovava nel porto. Oggi, se noi pensiamo, già nei pezzi, negli estratti che ha citato lei, c'è un cambiamento. Oggi noi abbiamo una copertura 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Il caso clamoroso in questo senso è stato l'uragano Katrina, che è stato proprio il disastro mediatico per eccellenza. Ora, ovviamente questa diversa copertura fa anche sì che l'evento diventi più o meno, vero e più o meno duraturo per un periodo più o meno lungo e per più o meno persone. E in questo senso i mass media, con tutte le distorsioni di cui si potrebbe parlare a lungo, però hanno anche un ruolo importante a tenere un evento sull'agenda delle persone oppure a farlo dimenticare molto in fretta. È anche uno strumento di elaborazione collettiva di un lutto e di un dispiacere la copertura mediatica, dottoressa? Certamente direi di sì, perché in qualche modo, l'hanno detto altri prima di me, il senso della comunità è importantissimo nel momento in cui succede un evento di questo tipo, si recuperano i legami. Lei intervistava la sua amica ingegnere che, pur avendo la casa non danneggiata, stava in strada con altri, condividendo la paura, in fondo il timore, accendendo un fuoco insieme. Quindi c'è sicuramente questo riconsolidarsi dei legami della comunità. Se questa comunità si allarga e c'è la percezione che non è più solo l'Abruzzo, ma è l'Italia intera, è l'Europa, è il presidente Obama che parla del terremoto dell'Abruzzo, certamente questo, pur nella devastazione, nel dolore, nel lutto, fa sentire che appunto è un lutto condiviso, che non si è soli, e questo è tutt'altro che irrilevante. E non ci sente ancora più orfani, dottoressa, quando per una necessità fisiologica di ogni copertura mediatica si abbassa il livello dell'attenzione su un evento? Certo, infatti in ogni disastro nazionale c'è la promessa ripetuta da molti giornalisti: non vi dimenticheremo, promettiamo che questa notizia non passerà, che continueremo a occuparci, che torneremo da voi continuamente. In alcuni casi questo succede davvero, in altri meno. Io ho vissuto personalmente il terremoto del Friuli, è il mio terremoto in qualche modo, posso dire, e effettivamente c'è stato abbastanza questo prolungarsi dell'attenzione. Chiaramente che poi con lo stile dei media, quindi si torna a Natale a vedere i poveretti che sono ancora senza casa, si torna in certi momenti, però in fondo è anche importante. Sì, ci fu un famoso servizio, mi ricordo, delle Iene, in cui Lucci costruì una sorta di sintetico teatrino natalizio con la neve, con ancora i terremotati appunto dell'Irpinia sotto la neve, per dimostrare il cinismo e il cliché di lettura mediatica e anche di pietà mediatica, anche di attenzione mediatica di fronte a certe circostanze. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, torneremo su questo argomento finché ancora avremo modo e maniera di esprimere quello che pensiamo, oltre quella che è la lettura quotidiana dei fatti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.